Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che guarda al mondo, ai fatti, alle notizie attraverso il filtro dell'animalità. Noi stiamo cercando di capire come la società umana si relaziona, considera, ma anche tratta, pensa la sua relazione con gli altri animali. Siamo a fianco degli altri animali nel cammino verso la conquista di diritti che pensiamo spettino loro. Nella puntata di oggi parleremo del World Vegan Day, che si è celebrato il 1° novembre scorso in tutto il mondo. Parliamo di potere, poi, del potere esplicito ma anche quello occulto esercitato dalle associazioni degli allevatori e degli agricoltori. Spesso si sono mostrati odiatori seriali della vita selvatica, con alcune però sorprendenti eccezioni delle quali vi parleremo. Parliamo anche delle espressioni facciali dei gatti e del film Dogman di Besson, con un contributo del filmologo antispecista Emilio Maggio. Non mancherà la ricetta vegana a tema del tosco vegan chef Gabriele Palloni, che è anche autore di libri di cucina, una cucina ovviamente cruelty free. Il montaggio musicale curato da Gianluca Masala, a sua volta amico dell'antispecismo, speriamo di avervi incuriosito. Di novembre è stato il World Vegan Day, una ricorrenza dedicata a promuovere la scelta vegan, che non è un regime dietetico ma una scelta non violenta, la scelta di non nuocere, di non uccidere, di non sfruttare gli altri viventi del pianeta animale, un pianeta del quale ci sentiamo pienamente parte. Questa giornata è stata promossa dalla più antica associazione vegana, la Vegan Society, nata in tempi molto lontani, cosa che non deve stupire, dato che a promuovere uno stile di vita non violento anche nell'alimentazione sono stati pensatori e filosofi dell'antichità, i Veda, Zarathustra, Gina e i Giainisti, e poi Eraclito, Diogene, Plutarco, Ambrogio di Milano, Agostino di Ippona, i Catari, Tommaso d'Aquino, San Francesco, si sono posti domande a proposito della giusta alimentazione e sono arrivati alla conclusione di escludere ogni sofferenza animale dalle loro scelte, perché mangiare carne era come commettere un omicidio e una dieta 100% vegetale avrebbe invece permesso all'anima di avvicinarsi al divino. Leonardo da Vinci scrisse: «Veramente l'uomo è il re degli animali, per la sua brutalità li supera. Noi viviamo per la morte degli altri. Dalla tenera età ho abiurato il consumo di carne e verrà il tempo in cui gli uomini guarderanno all'uccisione di animali come guardano oggi all'assassinio di un uomo». La giornata mondiale vegana nasce in Gran Bretagna nel 1994, tra la data di Halloween e il giorno dei morti, che cade il 2 novembre. Ma quanti sono nel nostro paese coloro che hanno abbracciato questa filosofia? Guardando al rapporto tra 2022 e 2023, la quota di vegani è in crescita, lo sono 2 persone su 100, e sembra che stiano rosicchiando spazio a quella dei vegetariani, che è in calo. Nel 2023, secondo i risultati del rapporto Italia dell'Eurispes, la scelta vegetariana è stata intrapresa dal 4,2% del campione, mentre è vegano il 2,4%. E se i supermercati dedicano spazi ai prodotti plant-based, il mercato si prepara. Tanto che, secondo una ricerca svolta dal Precedence Research, il mercato globale degli alimenti vegani, che nel 2021 era pari a 26,83 miliardi di dollari, proseguirà la sua espansione, con un tasso di crescita annuo, pensate, del 10,41%. È uno dei pochi comparti in grande crescita. Credo che sia un fiore all'occhiello, quasi un elemento di fierezza, il fatto che un personaggio come il dottor Pierre Ederer, noto consulente dell'industria agroalimentare ed economista finanziario, definisca il veganismo come un disturbo alimentare che richiede un trattamento psicologico. Se persone così vicine alla zootecnia industriale ci ritengono loro nemici, significa che siamo sulla strada giusta. Più avanti, in questa trasmissione, vi racconteremo un'altra storia che riguarda il dottor Pierre Ederer. E a proposito di avversari a un suono davvero stonato, l'ammonimento di quei pediatri che scoraggiano la scelta vegana per i bambini, perché le evidenze scientifiche dicono tutt'altro, cioè che l'allarme in questo momento sono i bambini e gli adolescenti sovrappeso. L'obesità, dovuta soprattutto al junk food, il cibo spazzatura, alle merendine industriali, alle bevande gassate dolcificate, a causa della disinformazione ma anche spesso della povertà delle loro famiglie. Sono questi gli elementi da temere, non certo le merende a base di mele o pane con l'olio. Certo, l'alimentazione è solo un aspetto e per prevenire le malattie serve anche attività fisica ed evitare sostanze come fumo e droghe. Tra i consigli che ci sono sembrati migliori per la giornata mondiale vegan c'è quello di Cibo Crudo, una realtà italiana che produce alimenti vegan friendly e che propone di veganizzare almeno la colazione di adulti e piccini, con la convinzione che un pasto vegan al giorno ridurrebbe fino a un terzo l'impatto ambientale della propria alimentazione. Si tratta di Miss Mucca, è il concorso di bellezza organizzato nell'ambito della Fiera Agricola e Zootecnica di Montichiari, nel Bresciano. Sì, noi siamo animalisti, antispecisti e vegan, ma guardiamo con interesse a quello che succede nell'industria zootecnica, perché questo ci dice qualcosa sul senso di quello che stiamo facendo. Stylist da tutta Europa arrivano per preparare le vacche con spazzole, phon, pettini e lustrini. L'obiettivo è far risaltare le caratteristiche dei capi e convincere la giuria ad assegnare lo scettro di mucca più bella d'Italia. L'iniziativa è rivolta a giovani allevatori, quasi 20.000 under 40, che hanno scelto in Italia di lavorare a contatto con gli animali nelle stalle. Questo è quanto emerge da un'analisi di Coldiretti. La preparazione delle mucche per il concorso di bellezza in stalla, dichiara Coldiretti, è un vero e proprio lavoro che richiede competenza, attenzione, preparazione, conoscenza e confidenza con gli animali. Il nostro obiettivo, continua Coldiretti, è mettere in mostra il meglio della selezione genetica italiana, all'insegna della biodiversità, del benessere animale e della sostenibilità. Fa un po' ridere che la selezione genetica venga chiamata biodiversità. La nostra sensazione è che gli allevatori siano da tempo in cerca di argomenti di distrazione di massa, che cerchino di normalizzare un'attività in crisi, sia dal punto di vista etico che dal punto di vista ambientale, che ha sempre meno argomenti e che è destinata a declinare irrimediabilmente. L'allevamento, insomma, è in terapia intensiva. Vedremo quanto l'accanimento terapeutico riuscirà a funzionare per prolungare questa misera esistenza. Dietro a molte operazioni di greenwashing dell'attività di sfruttamento degli animali a scopo alimentare, c'è Coldiretti, associazione di agricoltori e allevatori a forte vocazione retorica, con basi molto solide nei livelli apicali della politica. Negli ultimi anni abbiamo visto Coldiretti sempre più esasperata verso la vita selvatica, sempre più legata ad associazioni venatorie, sempre più apertamente in guerra con il resto del vivente. È successo per i cinghiali, per i lupi, per gli orsi, ma non tutti i coltivatori sono associati a Coldiretti e non tutte le associazioni esprimono posizioni così oltranziste e spietate verso il vivente non umano, specialmente quello selvatico. Nei giorni scorsi, ad esempio, il 30 ottobre, Mario Serpillo, presidente nazionale dell'Unione Coltivatori, ha diffuso uno dei comunicati che abbiamo trovato più radicali a difesa della biodiversità e dei selvatici, affermando che i selvatici sono ormai spaesati e senza casa perché l'asfalto e il cemento li hanno sfrattati dalle loro case e che gli incidenti stradali accadono di conseguenza per mancanza di un habitat naturale. Quindi Serpillo, presidente nazionale dell'Unione Coltivatori Italiani, ha sostenuto tesi che sono le nostre stesse tesi. Chi è in grado di affermare che 100 orsi siano troppi per il Trentino? Ha fatto questa domanda il presidente dell'Unione Coltivatori Italiani. In realtà la macchina perfetta della natura regola da sé il rapporto di sopravvivenza della specie, che si riproduce in base alle risorse naturali a sua disposizione, cioè cibo, acqua, rifugi, spazi, in un equilibrio sostenibile. Potremmo dire, continua Serpillo, che l'uomo ha sistematicamente praticato una sorta di land grabbing verso gli animali selvatici, togliendo loro campo, territorio, rifugio, cibo, in una parola, l'habitat naturale. Non vogliamo dimenticare la tragica fine dell'orsa Danica, continua Serpillo, morta nel 2014 perché non sopravvissuta ad un sedativo somministratole durante la cattura. Ennesima vittima dell'uomo stesso, uno splendido esemplare che non c'è più perché si è drammaticamente perso il legame sano tra uomo e territorio e con esso anche ideali e vedute di coesistenza. È il momento di passare a una gestione vera del territorio, integrata con le attività umane, ma attenta alla biodiversità e all'inclusione dei vari mondi naturali, in un nuovo ordine che potremmo quasi definire in cogestione tra uomo e fauna. Le parole di Serpillo, presidente dell'Unione Coltivatori Italiani, ci convincono, ci sembrano molto familiari e dunque siamo contenti che Coldiretti non sia l'unica voce degli agricoltori in Italia in questo momento. Mentre l'associazione di categoria Coldiretti si accanisce contro la vita selvatica in una guerra guerreggiata a suon di carabine, ma anche retorica e simbolica, Assocarni, Assica e Una Italia, tre associazioni italiane che rappresentano gli interessi della zootecnia in Italia, utilizzano sistemi assai discutibili per impedire all'Unione Europea di adottare misure di riduzione dei consumi di carne, che sarebbe l'obiettivo centrale delle politiche pubbliche riguardanti la salute e l'ambiente. A svelarlo è un'indagine di Unearthed, il team di giornalismo investigativo di Greenpeace. Proviamo a raccontarvi questa storia. La dichiarazione di Dublino, pubblicata nell'ottobre 2022 dall'Agenzia Governativa Irlandese per l'Agricoltura, TIGASC, sostiene che la zootecnia sia troppo preziosa per la società per diventare vittima di semplificazioni, riduzionismo o fanatismo e sottolinea i benefici nutrizionali e ambientali derivati dal consumo di carne. Questa dichiarazione di Dublino è stata sì sottoscritta anche da scienziati, ma è stata redatta da gruppi e consulenti dell'industria zootecnica. In Italia, in particolare, la dichiarazione di Dublino è stata ampiamente propagandata da 3 associazioni di categoria, Assocarni, Assica e Una Italia. Oltre a ottenere un'ampia copertura mediatica, il documento è stato utilizzato anche per fare pressioni sul commissario europeo per l'agricoltura, Wojciechowski, scusate ma è impronunciabile, il quale sarebbe alla ricerca di supporto scientifico per contrastare il Green Deal e i piani dell'Unione Europea per ridurre il numero di animali allevati. Tanto che il suo stesso team ha descritto la dichiarazione di Dublino come il primo contributo scientifico utilizzabile ricevuto in 4 anni di lavoro della Commissione. Al Congresso Mondiale della Carne, tenutosi nei Paesi Bassi a inizio ottobre, l'autore principale della dichiarazione di Dublino, quel dottor Pierre Herderer, del quale abbiamo parlato prima e che definisce il veganismo un disturbo che richiede trattamento psicologico, ha invitato i leader dell'industria zootecnica a usare aggressivamente strumenti scientifici come la dichiarazione di Dublino per fare pressioni sui politici in materia di carne e politiche zootecniche. Il team investigativo di Greenpeace ha svelato quindi il modo in cui la dichiarazione di Dublino è stata utilizzata per difendere l'agribusiness usando argomenti di retroguardia, conservatori e surrettizi. Le mail, i verbali delle riunioni e gli altri documenti ottenuti attraverso le richieste di accesso agli atti da parte di Greenpeace ha rivelato che la presa di posizione dell'industria della carne, scritta da consulenti del settore agroalimentare e usata da agenzie di pubbliche relazioni e lobbisti per bloccare le politiche europee a tutela della salute e dell'ambiente, si è ammantata di una immagine scientifica e super partes, ma non era né scientifica né super partes. I fatti concreti che l'industria della carne cerca di nascondere sono di tutt'altra natura, dichiara Marco Contiero, responsabile dell'agricoltura di Greenpeace Unione Europea. Secondo la più accreditata ricerca scientifica, l'allevamento impiega l'83% della superficie agricola mondiale per produrre solo il 18% delle calorie che consumiamo, generando di contro il 60% delle emissioni di gas serra in agricoltura. In Europa il settore zootecnico è poi responsabile di quasi il 90% delle emissioni di ammoniaca che l'agricoltura emette nell'atmosfera e dell'80% della dispersione di azoto. Continuare a opporsi alla necessaria riduzione della produzione e del consumo di carne, continua Marco Contiero di Greenpeace, significa sostenere la deforestazione, causare un'enorme perdita di biodiversità e aggravare la crisi climatica. Come se non bastasse, il sistema che la lobby della carne difende strenuamente sta letteralmente eliminando le piccole e medie aziende agricole europee all'incredibile ritmo di 1000 al giorno. E brava Greenpeace che ha svelato al mondo cosa c'è dietro alla lobby della zootecnia. We bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. Adesso parliamo di gatti, gli animali più amati in assoluto insieme ai cani, ma sempre in testa a una immaginaria classifica che noi non vogliamo alimentare, ma della quale occorre prendere atto. I gatti hanno un magnetismo unico, un fascino irresistibile, magico, forse dovuto al fatto che sono stati domesticati più recentemente rispetto ad altri animali e che quindi conservano una selvaticità profonda che li rende anche meno dipendenti, meno assoggettati alla nostra specie. Il 26 ottobre scorso è stato comunicato attraverso l'ANSA uno studio il cui esito è questo: i gatti comunicano attraverso 276 espressioni facciali evolute durante la millenaria convivenza con l'uomo. Ve ne leggiamo alcuni passaggi. Altro che animali imperscrutabili e poco socievoli. I gatti comunicano le loro intenzioni ostili o amichevoli utilizzando 276 espressioni facciali, probabilmente evolute negli oltre 10.000 anni di convivenza con l'uomo. Le hanno contate 2 ricercatrici dell'Università della California a Los Angeles, utilizzando video registrati in un cat café, un locale dove gli avventori hanno la possibilità di interagire con dozzine di felini. Lo studio, pubblicato sulla rivista Behavioral Processes, è nato da un'idea di Lauren Scott, studentessa di medicina, che per un intero anno accademico ha filmato le espressioni facciali che i gatti del cat café rivolgevano ai loro simili in assenza degli umani, quando il locale era chiuso. L'esperimento ha prodotto 194 minuti di videoregistrazioni che la ricercatrice ha poi esaminato, cercando di codificare tutti i movimenti dei muscoli facciali dei felini, esclusi quelli legati alla respirazione, masticazione, sbadiglio ed altre azioni simili. È così emerso che i gatti hanno 276 espressioni facciali diverse, molte più di quanto si fosse ipotizzato finora, considerando che gli animali più sociali che conosciamo e simili a noi, come gli scimpanzé, ne hanno 357. Insomma, anche dal punto di vista espressivo, i gatti non hanno rivali e ottengono il primo posto in classifica. Non sappiamo se sia questo il punto, ma confessiamo che, pur amando ogni animale diverso dall'umano, abbiamo un debole che si avvicina al culto per questi piccoli fenomeni viventi. E adesso un po' di cultura, spazio al cinema con una recensione del film Dogman di Besson a cura del nostro filmologo antispecista di fiducia Emilio Maggio. Sentiamo. Dopo Nikita, Matilde, Lucy e Anna, Besson affida la sua epica della trasformazione, un divenire altro che se stessi, per citare Deleuze, in quanto l'unica vera realtà è quella in continuo divenire, divenire cinema in questo caso, e se ci atteniamo alla trama, divenire abile nonostante gli handicap che la nostra civiltà considera inammissibili per l'efficienza della nostra convivenza sociale, dicevo, affida la sua epica della trasformazione a Douglas, personaggio dalla fluida identità sessuale interpretato da un attore mostruosamente bravo come Caleb Landry Jones. Il film è in tutto e per tutto un revenge movie altisonante, chiassoso, estremo e bigger than life. Douglas, costretto su una sedia a rotelle a causa di un proiettile che gli ha leso irrimediabilmente la spina dorsale, ha trascorso gran parte della sua infanzia e adolescenza chiuso in una gabbia insieme ai cani allevati per scannarsi nei combattimenti organizzati da un padre violento, mentalmente instabile. È proprio il padre a decretarne lo status di disabile. Dopo averne infatti abusato ripetutamente, non esita a sparargli con un fucile, giudicando il suo rapporto con i cani, con cui Douglas condivide la reclusione, troppo intimo e compassionevole. Ma a differenza delle sue precedenti eroine, qui il divenire, la trasformazione di Douglas è un divenire interspecifico, un divenire cane. Qui risiede l'importanza di questo film in una ideale galleria della cineanimalità. Insieme a White God di Cornel Mundruzzo, regista ungherese, infatti Dogman andrebbe analizzato non solo per i suoi specifici meriti cinematografici. Il film, oltre ad essere un melò incentrato sulla disabilità come dimensione critica del conformismo sociale e culturale, commuove e incentiva riflessioni su alcune delle questioni che continuano a dividere l'opinione pubblica, come quelle legate all'identità di genere e all'abilismo, ma anche e soprattutto perché la sua riuscita e lo svolgimento della trama dipende in tutto dalla organizzazione dei movimenti e delle azioni di una moltitudine di cani diversi per indole, tipologia e biografia, come asseriscono Matilde De Cagny, l'addestratrice di questo speciale set ai confini della realtà e uno stunt nel making off del film. La cosa più delicata in un film del genere consiste nel modo in cui gli attori riescono a farsi accettare dai cani. Io non so se questo sia eticamente sostenibile e giustificabile, ma sicuramente i cani hanno delle caratteristiche in cui l'intesa umano-animale non è sempre dettata dallo sfruttamento e dalla violenza, ma contempla anche la possibilità ludica della condivisione, dello stare insieme. Dogman inizia con una celebre celebre frase di Lamartine, sovrimpressa in esergo ai titoli di testa: ovunque ci sia un infelice, Dio gli invia un cane. Il film poi ha delle sequenze straordinarie, oltre alle performance di Caleb Jones nei panni di una travolgente drag queen e alle sue numerose trasformazioni in vendicatore dei reietti degli esclusi della società che ne fanno un nuovo Joker, le scene con i cani sono quanto di più emozionante ho visto ultimamente, come nello struggente finale in cui Douglas si immola novello Cristo circondato dalla muta dei cani con cui condivide spazio abitativo e tempo della vita e della morte. Ogni riferimento all'asino Baltazar è puramente voluto. Dogman in fondo è un film sull'identità di genere, sull'identità di specie e sulla identità di classe, e lo è utilizzando gli strumenti del cinema di genere insieme alla bidimensionalità del fumetto, in cui a prevalere è la sospensione della incredulità di contro alla tridimensionalità mortifera della verosimiglianza a cui ci sottopongono continuamente gli organi dell'informazione e della comunicazione di Stato. Nonostante le maldicenze che circolano in rete, Besson non ha rubato il titolo a Garrone nei titoli di coda. Infatti il regista transalpino ringrazia grazie al regista italiano della gentile concessione. Questa settimana abbiamo chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà, e anche questa ricetta, come tutte le altre, sarà a tema. In particolare, stavolta sarà dedicata al World Vegan Day, celebrato il 1° di novembre, un evento internazionale al quale il nostro chef ha accettato di offrire un suo contributo. Sentiamo la proposta. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Per celebrare il Vegan Day vi propongo un bel ciambellone con i colori e i sapori dell'autunno, eppure in tema Halloween. Gli ingredienti per uno stampo da 8 persone per il ciambellone di zucca e amaretto sono 200 g di polpa di zucca, 200 g di farina tipo 0, 150 g di zucchero di canna, 30 ml di olio di semi di girasole, 50 ml di amaretto, 50 ml di latte di mandorle, un pizzico di cannella, un pizzico di noce moscata, 8 g di crema tartaro, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di succo di limone e un pizzico di sale. Tagliate la polpa di zucca a fette e fatela cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Una volta cotta, versatela nel bicchiere di un mixer, aggiungete il latte di mandorle e l'amaretto e frullate il tutto. Versate il composto in una ciotola, aggiungete lo zucchero e l'olio di girasole. Di seguito la farina, le spezie, il cremor tartaro e il sale, e mescolate bene con una frusta. Portate il forno in modalità statica a 170 gradi. Aggiungete il bicarbonato all'impasto e sopra di esso versate il succo di limone. Appena farà reazione, mescolate bene un'ultima volta e versate l'impasto in uno stampo che avrete spennellato di olio e infarinato. Fate cuocere per circa 40-45 minuti. Una volta cotto, lasciate raffreddare la torta per 15 minuti e almeno un'ora dopo averla tolta dallo stampo. Servite con una spolverata di zucchero a velo. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegana. Per questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 719 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.